Wall Street, i viaggi del lupo. Ebbene sì, oggi è venerdì 9 febbraio 2018 e siamo in onda per una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi siamo un po' in formato ridotto. Allora... Sì, oggi siamo diciamo pochi ma buoni, dai. Dai, ci siamo io, Domenico Biancardi e... Presentati! Pure! Cristina, dai Cristina. No, Cri, dai. Dai, va bene Cri, va bene Cri. Stavo leggendo... Ascolta! Dimmi. Come si fa ad abbassare qua? Adesso lo sistemiamo. Stavo leggendo un po' gli eventi che sono successi, diciamo, negli anni, nel 9 febbraio, giusto per dare qualche... Ogni tanto mi piace guardare qualcosa di storico. Yeah. E no, era una cosa carina perché il 9 febbraio del 1942 entra in vigore l'ora legale negli Stati Uniti, che è una cosa che ultimamente è ritornata di moda perché volevano cancellarla. Sì, infatti, ho letto qualche notizia che... Poi magari però ne parliamo, hanno rimandato. Vabbè, poi ne parliamo quindi... magari. E poi un'altra cosa carina invece è che i Beatles al programma The Ed Sullivan Show hanno avuto un audience in televisione di 73 milioni di americani, che era l'evento televisivo più grande della storia. Vabbè, dopo questi aneddoti possiamo iniziare con un po' di musica e andiamo ad ascoltare Daft Punk con Aerodynamics. Aerodynamics. Sì, no, allora. Perché c'è anche Aerorhythmics, quindi mi confondo sempre. È un pezzo bello. Ma neanche leggere, sai? No, mi sono confuso. Inizio con queste belle campane a morto. Buona. Oh, Vabbè, dai, ecco. Erano le campane a morto, però iniziamo con le campane e finiamo con una campana, giustamente, no, però, dai, per dare un po' di allegria a questa serata. Il pezzo fantastico. Era bello. Il pezzo era bello. Intanto è arrivato Tony, che però, diciamo, ancora non è pronto ai blocchi di partenza, quindi è stato... Sono un po' bloccato. Ai ai, male, Tony, male. Vecchiaia, la vecchiaia. C'è stato tipo, hai sente quando c'è Ciao Darwin, no, che fanno... Vada, vada, vada, però non collaborava, quindi vabbè. Vince di? Vado. No, vada. Che vada. Cazzo, o vada. Che vada, vada. Io conosco sì. Quo vado. Sì, quo ritorno. Vabbè. Intanto che ci sistemiamo per avviarci a questa... Un polipo. Sì, vabbè. Infatti, intanto che si sistema, più che noi ormai ci siamo pronti. E intanto che tu cerchi qualche argomento che ti avevo dato questo compito. Sì, infatti io ho preferito andarmi a fare un bel bagno rilassante. Ma hai trovato qualcosa da dire o no? Porca miseria. Mentre ero in vasca da bagno. Non credo. Vabbè, allora, visto che non hai argomenti, andiamo con la musica. Allora, vabbè, continuiamo con un po' di musica. Dopo li troviamo, tanto siamo in quattro qua, quindi qualcosa infatti. Uscirà fuori. Va bene, e andiamo ad ascoltare allora Sophie Tucker con Best Friend. No, non è un remix, è un pezzo originale. No, pensavo fosse un remix. Perché ridi? No, niente. Fit Nervo anche. Fit Nervo, Nox. Tutto le Nervo. The Nox e Alisa Ueno. Ueno. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah. Yo, you wanna meet me downtown? Okay. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's the way it is. That's the way it goes. It's just a two. It's deja vu to what we know. That's the way we like it. Don't complicate. No need to fight it. Just invite it. Yeah. Ho capito che oggi iniziamo col delirio. Qui c'è proprio l'anarchia, oggi. Gente che si attacca alle spine, sembra di essere a casa propria. Sì, infatti. Casa Dumat versione beta. Infatti la canzone era Best Friend, no? Sembra di essere un po' tra amici, no? Quello che... Sarà più una, come dire... Ristabiliamo l'ordine in questa radio. Centro sociale. Vabbè, infatti c'erano i cani qua che passeggiavano. Sai che nei centri sociali solitamente si trova di tutto, no? Sì, adesso neanche più quelli. Sono cambiati anche i centri sociali. No, davvero. Dai, adesso l'ordine è stato ristabilito, ecco. Almeno qua. Buonasera, buonasera. Ecco, beh. Quindi abbiamo con noi Tony e la nostra Deborina. Ciao, amor. Ovviamente a Debora. Sì, sì, io sono l'intermezzo. Sì, intanto... tu sei la presenza un po' ingombrante, scomoda, quindi... Intanto salutiamo la profumeria della radio. C'è una profumeria in radio. Sì, in effetti, come sono entrato ho detto, mica, quanto tempo. Quanto... No, vabbè... Non so che succede. E Eau de Chanel, no? Sì, magari... un numero un po' più alto del 5 o meno 1 tipo 99 meno, scaliamo. infatti vabbè, intanto che finalmente ci siamo sistemati, quindi sì. Adesso questo effetto strano è fatto da te, no? Qual è l'effetto strano? Non lo so, se la base Clash sì, no, vabbè, no. Cosa qua senti? Sì, tipo gnugnugnu, vabbè. Sì, okay. Vabbè, un po' di effettini, dai. Cos'è che fa gnugnugnu? Questo perché ha comprato la tastiera nuova, vuole far vedere. Fa che... la schizzinosa la base. No, allora, io ce l'avrei l'argomento. Sì, che... anch'io pensavo, però. Ok, allora dopo ci confrontiamo. Minchia, oh, no, criceti, no. Io pensavo che ci fosse una persona che parlava, diciamo, di una cosa... Sì, può essere, allora adesso ci confrontiamo. E... gira la ruota. Prova a guardare se il pezzo dopo lo conosci. Dimmi un po'. Ma sei bastardo perché non lo sai dire. No. Allora è Le Tigre con Vabbè, ho capito. Decapitation. Ma perché? Allora io non mi sembro. Io non ci leggo, però ma quello non le mi conosci? Sembra una... No, mai sentito. No, non ci credo, mica cade un mito. Decepticon. Beh, okay. È del 1970. 86 se non erro, ed è loro sono un gruppo recente. Che un gruppo synthwave new punk. Mi è proprio nuova sta cosa. Vedi che anche al 2018 si possono scoprire delle bellissime cose anche. E secondo me antiche. È il genere di musica che antiche. Sta andando adesso, secondo me. Prova ad ascoltarla. Sì, magari dopo ce l'hai lo stato sociale. Io Baglioni se beh, vuoi. Come base non è male. Come base non è male. Se dopo ti dico i miei commenti a caldo. Va bene, okay. Andiamo avanti, dai. diceva la Cristina. Sì, io l'ho. Vabbè, dai, allora ti è piaciuta. No, no, questa volta non è farina del mio sacco. Poi, veramente... Te l'ho detto, loro sono, ripeto, pezzo del anni 70, quindi secondo me hanno ripreso un po', cioè ultimamente sta riprendendo un po' il genere questo qui, quindi ci sta, non mi dispiacevo. Sì. Non è male, non è male. Sì, perché poi a me ricordano i Gossip, quei gruppi. Sì, sì, sì, sì, infatti era, proprio, era proprio per quello che ti dicevo che riprendevano, i, cioè i gruppi appunto, nuovi riprendono questo genere. Qualche volta. Sì, sì, sì, sì, sì. Anche i C-Cup, sai come, sono, allora, sono scritti con punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Ah sì, tre punti esclamativo. Che però sì. Loro hanno un altro, in realtà poi dopo si pronuncia in un altro modo, che è tutta una storia che strana. È un punto di domanda come si pronuncia. Sì, sì, sì, infatti. Vabbè, vabbè. Non l'ha capita la Cristina. Sì, no, la Cristina c'ha un punto di domanda in faccia in questo sì, momento. Dov'è il wifi? Vabbè, stavamo parlando quindi che no. In questi giorni si è tenuto, ormai lo sappiamo tutti, hanno fatto anche mille si trasmissioni di Radio ancora. Lupo. Ah, sì, io modestamente lo sono stato. Eri presente. Anche, ero presente proprio sotto l'Ariston. Guarda. Sì, sì. Questo bellissimo festival di Sanremo. Sì. Io in questi giorni in realtà stavo guardando che ci sono anche i festival alternativi. Di che cosa? Tipo? Tipo Sanscemo. Ah, ma lo fanno in contemporanea. Io Allora ti scrivo. No, ma tra l'altro, poi oggi preso un po' dalla cosa, sono andato a farmi un po' di ricerche su Wikipedia. Una pagina Wikipedia. E ci sono anche un sacco di... di vincitori ufficiali, è dal 90. Sì, sì, ma è, no, ma è diventata una cosa seria, cioè. Che caratteristiche devi avere? Demenziale. È una cosa demenziale. Sì, sì. Allora per te va bene. Cioè che poi demenziale non vuol dire essere stupida la cosa. No. Cioè, vediamo se c'è, vediamo un po' chi è che ha vinto. Cioè, beh, Dario Vergassola, ok. Dario Vergassola, sì, sì. Marco Carena, cos'era anche? No, Marco Carena no. No, non lo conosco. Power Illusi, questo non deve essere. Ma... sì, magari poi tra i nomi dei personaggi ci sono artisti famosi. Sì, sì, probabilmente. Poi cioè, il progetto è... presentatori anche molto famosi, da Andy Luotto. Sì, giusto, giusto, è vero. Sergio Vastano. Maurizio Paradiso, questo vabbè, famoso per beh, non si sa se è presentatore o presentatrice. È stato anche Fre Cantoni, Buonanima, che è morto. E Roberto Ferrari. Vabbè, lo sappiamo chi è Roberto Ferrari. Quest'anno festeggia anche i 30 anni della sua permanenza in una radio che non c'è più, io dico. No, nella permanenza, diciamo, nel mondo radiofonico, mettiamola sì, così. Beh, dai. Lui era che però devo dirti la verità: il loro programma demenziale su radio, sì. Radio che non si può dire adesso, a me non dispiaceva. Poi ha iniziato a prendere una piega troppo trash. Ma un po' scocciato. Io non me lo ricordo. Vabbè, io diciamo che comunque lui è il punto debole. No, sì, pensando, no, però... vabbè, dai. Lui era anche un canottiere, cioè faceva sport, aveva un fisico. Sì, adesso non si direbbe tanto. No. Va bene, dai, torniamo. Vabbè. Nessune frequenze di Radio Lupo Solitario. Infatti. Settimana scorsa che eravamo da soli. No, una canna. Scusa. Eravamo da soli, stavo cercando di mettere questo brano di Calvin Harris. Eravate da soli? Sì, c'era anche Fabio, che però oggi causa lavoro non è riuscito a passare. Stanno cercando di mettere questo brano di Calvin Harris, che ho detto che è uno degli album che mi piace di più, tra l'altro. Sì, il primo che ha fatto. E il PC, giustamente, si è ribellato, non so per quale motivo. Ha letto disco, ha detto no, qui la roba di... E l'ha skippato. Invece questa salutiamo volta... Salutiamo il grande capo, il boss. Nello! E invece questa volta Nello. Sicuramente la corrente. Invece questa volta sicuramente dovremmo riuscire a metterlo questo brano. Beh, in teoria è lì già pronto. È pronto per essere suonato. Il brano è I Create a Disco ed è il, diciamo, uno dei primi brani del suo primissimo album. La title track dell'album. Sì, I Create a Disco. Vabbè, andiamo ad ascoltarlo. Intanto io continuo a sperare in Cristina che si faccia venire in mente qualcosa da dire. Ma tu che vuoi da me? Che magari vuoi? Magari viene in mente la spesa da fare. No, la spesa dopo, dai. We'll be right back. Well, it was the mid-70s. I was a virtually unknown producer at the time. And I was conducting various sonic experiments with the assistance of Mary, my wife. Anyway, during one session, I discovered that by using a succession of techniques I actually developed during the war, I could create an entirely new genre of music. And that was the night I created disco. E anche con questo brano siamo un po' borderline stasera. Stasera facciamo la puntata borderline. Non me lo ricordavo tutto strumentale. Cioè, sì, tra l'altro ci sono anche altri brani che mi piacciono, magari poi dopo li mettiamo nelle prossime puntate. Ah, penso tutto no, l'album. È che facciamo il tributo a Calvin Harris. Non ha neanche bisogno, no, no, infatti, comunque no, è no. Molto bella come canzone, mi piace, mi piace. Davvero? Sì, ma... Che poi cioè io ce l'ho da una vita... No, ma gli piace perché è cioè, una canzone che strumentale gli piace. Scusate. No, no. Canzone di solito è cantata. Vabbè, è cantata, c'è una vocina. Sì, no, ma c'è l'effetto del lunedì sera. Perdona. Madonna mia. No, ma io non parlo con sta gente. Ma che cazzo stai dicendo, Tony? Vabbè, ma ce la fai? Che cazzo ti sei bevuto stasera? Ti faccio la battuta classica, abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni, sì, sì. Comunque il mio telefono è risuscitato, ha funzionato. E quindi adesso puoi cercare l'argomento. Soltanto di computer davanti, no? Quindi cioè tutti i mezzi che più neanche la NASA ha per comunicare col mondo. Lei è rimasta sulla pagina di Google. Che poi bisogna. Perché c'è il gelo sulla pagina di Google? Perché oggi iniziano le Olimpiadi invernali, i giochi invernali. Ah, e quindi c'è la pagina di Google che ha queste stalattiti con un po' di neve sopra, un uccellino. I famosi doodle. Il famoso bird. Bird? L'uccello? Cosa sarebbe sì, Bert? Ma non ho capito. Hai fatto inglese a scuola? Sì, no, ma non capisco. Quando andavi tu a scuola? Sì, si chiamavano... 200.000 anni fa. Sì, c'erano i tirannosauri. Come si chiamano quelli che volano? I pterodattili. Pterodattili. Ecco. Pterodattili. Poi si sono un po' rimpicciolite. Ah, anche okay, la gente perfetto. Si è rimpicciolita. Io sono nato in un periodo che è tutto piccolo. Mannaggia. Comunque sì, iniziano oggi i giochi invernali, è vero? Sì. Tra l'altro... Chi è la mascotte di quest'anno? Dai, vedi? Dai, presidente, andiamo a vedere. Presidente della Corea del Nord. Tra l'altro si fanno nella Corea del Sud. Sì, hanno fatto pace. Sì, no, non è che hanno fatto pace. Sì. Si parla dei giochi del disgelo. No, sì, è vero. Proprio. E come fanno a farli allora? Non lo so. È una tigre. La tigre? Che si chiama? Non lo so dire, Sohorang. Sohorang. Tra l'altro, se guardate su Google, c'è proprio tutto il doodle, sì. Che è lunghissimo, è un'animazione lunghissima, non è male. Bellina, è una bellina. Tigre bianca. Vabbè. Va bene. Però dalla pubblicità che hanno fatto, pensavo fosse la giraffa. Ma perché sai, le pubblicità confondono. Poi mi diciamo che la giraffa è proprio un classico animale poi da, diciamo, da Olimpiadi. No, da freddo, da inverno, sì, sì, capito? Spirito olimpico. E là in alto dove ha la testa, nevica. Sugli alberi. No, arriva a mangiare. C'era un la neve. Cantante, pensa, non so se ci hai mai fatto caso, questo cantante che andremo a mettere dopo, sì, cantava sempre con dei cappelli lunghissimi, anzi enormi. Proprio perché aveva freddo, no? Quindi doveva coprirsi dal... Infatti aveva anche i capelli lunghi. Sì, no? Io dico quello che ho capito, lo dico dopo, quando sono spenti i microfoni, perché è meglio così. Dai, anche lui è abbastanza famoso, dai. Dovremmo conoscerlo, dai. Sì, beh, in effetti... Lui è Jamiroquai. Beh, questo mi sembra che fosse il brano di Deeper Underground. Sì. Era il brano di... Io lo so, ma non te lo dico. Allora, King Kong? Sì, King Kong. Le scimmie, il pianeta delle scimmie. Non era King Kong? Ah, il pianeta delle scimmie. No, è un altro mostro. Come un altro mostro? Dai, ma e dai. Se non è King Kong, sarà. Chi come è? Si chiama quell'altro lì? Urk. No, Urk. Sì, Urk. No, quello verde. No, Urk non è un mostro. È così, è un bel ragazzo. È un supereroe. Sì, vabbè. Aspetta, ma magari... no, mo me lo dici. No, no, mo me lo dici. No, ma poi anche la famosa la colonna. Ma andiamo tutta la sera fino alle 10. La colonna sonora è anche famosa di tanti intanto. Altri pezzi. Tipo, sì. Sì, quella di come si chiamava? No, MCM. Ciao. Vabbè, non è, quindi non è no. Ma caspita. Lucertoloni. Dai, Lucertolone. Sì. Non mi non so leggere si il labiale. Si parlava prima di dinosauri. Ma cacchio si Godzilla. Chiamava? Godzilla, bravo. Che poi vedi c'è anche questa introduzione qua, poi c'è molto. Anche altri due pezzi famosi della colossa. Vabbè, iniziamo ad ascoltarci questo qua. Quindi è Jamiroquai con Deeper Underground. Già, sì, è proprio Godzilla. Non me lo ricordavo proprio. Cioè, no, mi ricordavo il mostro, ma proprio il nome sì, non mi veniva in mente, ti giuro. Tra l'altro è stato anche rifatto in 3D, forse uno dei primi film, allora penso. Aspetta, non è proprio nuovissimo Godzilla, no, Godzilla come film. Godzilla è una cosa... Del 98, addirittura. Sì, del 98. Quindi, c'era già il 3D. Sì, ma poi c'è una serie TV, anche cartoni animati. Cioè, non mi ricordo se è un manga, comunque. fosse della Marvel, qualcosa del genere. È un manga? Manga? Sì, non abbiamo solo noi. Hai manga. Visto tua moglie? Chi è mia moglie? Non ho moglie io. Ma la smetti? Ma perché? Oh, ma... Vabbè, allora facciamo così, passiamo io da... Io devo menarlo prima o poi. Facciamo speciale Sanremo, facciamo una... Mi sono mangiata il microfono. Di famiglia. Buonasera. Mi sono anche mangiata. No, invece facciamo così, cambiamo invece proprio... Sponda? No, no. Allora, dopo questo qua facciamo che la banniamo proprio, completamente bannata, ok? Sì, sì, infatti. E... No, no, cambiamo ritmo. Riaccendimi il microfono! No, non te lo riaccendo. Cambiamo ritmo e cambiamo anche la, diciamo, la musica un po', no? Non funziona. Arriviamo alla mia... No, no, no, dai, è stato Clemente. Non è, si chiama Domenico? No. Russo. No, magari, sai che sì, pugni, che fisico. Vabbè, io ti ho detto che era meglio di là. Comunque, facciamo la mia... La prima parte della sì, mia... della tua rubrica. Della tua? Rubrica, che si spera settimana prossima... Che si chiama Mezza Tonica. Abbia una sigla, un sì, qualcosa. E settimana prossima, infatti, posso avere anche una sigla. Ecco. Allora, per questa sera, la prima canzone che ho scelto, come ho fatto nella descrizione, si parla di acqua salata. E quindi ci porti al mare, al mare. Magari il mare, cazzo. Il nome del musicista si chiama Chicane, scusate, il suo pezzo più famoso è Offshore. E lui è stato uno dei primi a rendere famosa la musica ambient, comunque di un certo tipo, anche i disc jockey, dunque ci mette anche un po' di cassa, come si suol dire. E nel 2000 dall'album Behind the Sun, ho detto giusto, vero? Bravo! Ha tirato Hai fuori studiato. Questa salt water, che vuol dire acqua salata. Ah. E il pezzo è un po', diciamo, fuori dagli schemi che possiamo mettere, diciamo, un po' Domenico. Ma sì, dai. Tu hai detto borderline. Borderline. Borderline. Borderline. Borderline. Ha un po' di cassa, però se l'ascoltate è famosa comunque. Diciamo che ci sta. Io ci però sta, pensavo mettessi dica. Pensavo mettessi il brano quello Struggle for Pleasure. Ah, dura 7 minuti, Poi è tutta sinfonica. No, cioè, vabbè. Un pezzo sinfonico è anche veramente di metterlo, però. Vabbè, vabbè, lo mettiamo la prossima volta. Quindi okay, andiamo ad ascoltare quindi Chicane con Saltwater. Thank you. bella. Sai cosa mi ricorda tanto? I brani quelli di Guriella. No? Eh sì. Pochettino sì, dai. Sì, sì, Ferry Costa. Ferry Costa. Gli ho fatto vedere anche la Debra, che è il suo brano più famoso, ha compiuto i 20 anni. Di Ferry Costa? Sì, sotto il nome System F. Ah. Capito che non gliene è fatto un cazzo a nessuno. Ci devi guardare, ci devi guardare. Ma stavo guardando lui, che vuoi tu? A te vedo tutti i giorni, mi vede pure la tua faccia, mo qua. E che cazzo? No, per parlare ci devi guardare. Funziona così. Funziona così. Allora, la direzione degli occhi è una sola. Sì. A meno che tu non sia strabico. Devi essere veloce. Io non sono strabica. Quindi una cosa faccio. Devi essere veloce. Una persona guardo. Che è la più vicina. Vabbè, gli volevi chiedere, quindi? Tu dici sempre nella tua mezza tonica, sì, l'ambientazione dove ti ispira la canzone, ascoltarla, che ne so, al tramonto, sì, sì, piuttosto. Beh, questa già, quando è che l'ascolteresti? Al tramonto, sempre. Ma anche all'alba, anche all'alba. Sì, anche all'alba. Sempre sul è mare. È molto soft, sempre molto sul mare. Sì, delicato. Dedicata. Beh, non credevi che avessi un lato così, no, così umano, diciamo. Molto umano. Molto umano. Grandissimo. Grazie. Diciamo che nelle nostre puntate ritorna sempre un po' Fantozzi, non so sì, perché. Sì, l'effetto, con quell'effetto che c'è dentro nella... C'è l'effetto, poi l'altra volta... Secondo me è un evergreen Fantozzi, sì, cioè, sì, sì, veramente, no. Sì, non è... Per me è per sempre, neanche... Una cosa che non tramonterà mai. Sì, no, cosa infatti vuol dire evergreen? Sempre verde. Infatti, per sempre. Sì, mamma mia, ma che... guarda l'altra, Bristol, come si chiama? Allora! Oxford. Sì, vabbè. Mi sì è caduto proprio sull'evergreen. Vabbè, lei. Allora. Visto che prima abbiamo ascoltato sono un brano... Botanica. Visto che prima abbiamo ascoltato un brano molto tranquillo, molto soft, adesso andiamo ad ascoltare qualcosa di un po' più cattivo. Hai finito allora di mettere le R dappertutto, tu? Molto soft. Molto soft. È vero. Devo limitarmi un po' stasera. No, le R le metti dappertutto, non lo so. Andiamo ad ascoltare questo brano che è di Salem, che non è il gatto, di Sabrina. Non è il gatto di Sabrina. No, ma il brano prima era Salt Water, che è Salem. E infatti vedi che c'è una connessione. Però comunque, ripeto, non è il gatto di Sabrina. Il gatto nero. Te la ricordi, c'è Sabrina? Una città di nome Salem. Basta, te la ricordi, Sabrina? Un mondo adesso. Sì. Non devi dire quella cosa di... Perché? Cioè, perché? Poi queste qua, magari, parli di cartoni animati... No, io ho detto che è una città, Salem. È vero, anche una città. Sì, streghe di... Però il dai, titolo, il titolo è stasera... Blood. Blood, sì. Sangue. Infatti, perché... Immagino che canzone è, proprio è cavolo, cioè tocchiamoci tutto, anche di più. Ma non il mio più. No, dai, è un bel pezzo. In realtà parte anche molto soft, senti sotto che... Sì, è un Però dopo si incattivisce un po', andiamo ad ascoltarcelo. The more I run, the farther seems what is green is always more than a yard away. Art is a mean meditation, staring at a blank screen in between what we mean and the things we say. Throw away to create complicated, it's the same damn thing. Once it's made, I'm too good to appreciate. So I try to put a little piece of myself in, keep the pretty people listening. Try just floating on the ideas. I'm biting my tongue. It's in the air, it's in the atmosphere. I can hear, but I can't tell what it's telling me. Too many sides to a story, all these colors and shapes. I'm afraid if I love it, you won't agree. To it, art is work, work is love, reminding us why we do it. Art is love, love is work, it hurts to give yourself to it. Art is work, work is love, forget yourself for the music. So try to put a little piece of myself in, keep the pretty people listening. Viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. E questo qua era New Garage. Te conosci il genere? No. No, il genere, no, il titolo no. Il genere è garage, two step. Ho sentito una base, gazzetta. Ti sembrava? No, beh, adesso non so, perché poi tutte queste definizioni che si danno alle canzoni. Ma è una, diciamo che è un genere molto antico, dirti la verità, perché agli esordi della musica elettronica. Come dimmi. La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, lasciamola stare. Allora, abbiamo ascoltato quindi prima il pezzo di Salem, che non è il gatto di ok, ancora, l'abbiamo story, capita. Che è un gruppo guardiamo Sabrina. Che è un gruppo statunitense. Esattamente, perché Salem. No, forse c'è anche in Inghilterra, no, ma so, beh, in America sì. Salem era la città delle streghe, no? Sì, ma è in sì. America, sì. Vabbè, England. Io infatti vorrei andare in una città fantasma, ma nessuno mi porta. Ma se non esiste? No. No, no, esiste. Esiste, invece... ne ho trovata una e ci devo andare prima di morire, quindi... Con i dischi di Baglioni. Sì, perché stavamo parlando del festival, va bene, ok, diciamolo, va bene. Che qualcuno qui è più polemico di me. No, io su questa cosa qua sì, perché guardavo le esibizioni. Salute! Guardavo le esibizioni e praticamente c'era questo gruppo, lo Stato Sociale, che sono un po', diciamo, un po' l'avanguardia musicale rispetto a quello che c'è a Sanremo. E... No, vabbè, allora scusa, vado avanti io, ok. Dicevo, praticamente, lo Stato Sociale è l'avanguardia musicale di quest'anno, perché altri... Gli altri gruppi fanno musica bella, non bella, però la solita roba, dai, sempre la solita roba. Il problema è che suonano. Alcuni temi che toccano alcune canzoni sinceramente piacciono. Ok, cioè... però lo stile musicale è sempre quello, cantato. Vabbè, che poi le note sono solo 7. No, non è vero, non è vero. No, quante sono? No, ho capito, ma poi guarda quanto tipi di musica che suoniamo a Wolf Trips. Non c'è sempre la stessa cosa, nel senso, sì, puoi fare mille stili musicali, Anche con le stesse note. Ho capito, però... Beh, ti sto dicendo comunque lo Stato Sociale, che ha fatto oggi comunque musica... non ne va bene una, eh? Il no. microfono scende. Lo Stato Sociale, che ha fatto comunque il... Dato c'è un ammutinamento. Che ha fatto questa musica, questo genere di musica un po' di... un po' diverso dalla solita, in realtà suonando le tastiere, le suona però con i cavi staccati, ti stavo dicendo. Ecco... E quindi, boh, non lo so, cioè mi sembra come... È come quando si canta in playback. O no, in playback, quando tu canti in playback. Quindi, sì, tutto bello, tutto carino, ma... Perché non l'hanno suonato davvero? Cioè, perché non le possono suonare, perché la musica che fanno non viene da quelle tastiere che hanno lì, te lo dico. Ah, neanche quello, cioè neanche se avessero i cavi e tutto. No. Cioè la base è già... È una base preconfezionata fatta in un altro modo. Ma neanche dall'orchestra, cioè magari lì c'è il tastierista dell'orchestra che... No, in quel caso lì no, però in altri casi effettivamente sì. Tra l'altro aggiungono anche valore aggiunto, diciamo, l'orchestra sì, migliora parecchio beh. Il brano, eh. Vabbè. Andiamo ad ascoltare adesso un nuovo artista, Unlike Pluto, non mi piace Pluto. Non ti piace Pluto, sì. In realtà lui fa dei pezzi veramente belli ed è il fondatore dell'etichetta Monster Record, che è un'etichetta adesso diventata abbastanza famosa. Perché? Perché? Perché? Dimmi. No, perché gli ultimi, diciamo che un po' tutti gli artisti nuovi stanno cercando di pubblicare con questa etichetta. Pensavo che era una scena... particolarmente amata da me, cioè? Ma non lo so, una cosa che arriva con app, non riesco a dirlo, no. Un po' di tutto c'è dentro, c'è anche dentro, per dirti, hardcore, c'è dentro un po' di tutto. Tra l'altro adesso si stanno interessando anche artisti più famosi, tipo Deadmau5, che non gli basta la sua etichetta, che tra l'altro si chiama Trap Mouse. Sì, infatti. Diciamo, in realtà sta pubblicando anche dei brani con lui, è un'etichetta cioè, molto carina. La sua etichetta non riesce a pubblicare? Ma no, perché sta avendo un molto successo, molto diciamo, ascolto. È una vetrina migliore. È la sua. Quindi andiamo a ascoltarci a Like Pluto con Everything is Black, o Everything Black. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes, but I won't sleep tonight. Baby, you should come with me. I'll take you to the dark side. of the night, but it's the only way of life. Black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Baby, you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. Quindi il pezzo Tamarro non ti piace, dai? No. Vabbè, sì, piace tanto invece. Va bene, poi almeno ai miei gusti. Vabbè, o poi suono... sono. Comunque è Monster Cat, non è Monster Record. Sì, avevo capito. Perché mi sono sbagliato io, devo dirti la verità. Però, vabbè. È un'etichetta molto. Ne sentiremo parlare molto. Tu cosa c'hai che ridi? Niente, non sono affari tuoi. Vabbè, ok, vabbè. Ce l'avevo con l'amica Deborah. Che cazzo hai combinato? Ok, ok. E niente, quindi del festival invece voi cosa avete visto? Avete visto qualcosa di interessante? Io a cenni ho visto un po' la prima serata, e giusto per vedere che, come era l'entrata, come era il palcoscenico, però. Come erano i vestiti? No, diciamo, le scollature! Le scollature! Vabbè, quella si è già vista in molti altri modi, la stuzzica. No, vabbè, mi piaceva soprattutto vedere il palco com'era. Ma non è male, no, no, no, veramente bello. Ma io sinceramente anche lui non mi dispiace come conduzione, poi sempre c'è sempre le polemiche dei soldi, vabbè. Poi uno ma quello lo sappiamo, giusto alle cose. Però mi fa ridere appunto quella, l'altra polemica sulla canzone che ha lo stesso ritornello di Herman Meta, è stata proposta a Sanremo Giovani 2 anni prima. Sì, che però c'è lo stesso produttore. Ma c'è lo stesso produttore. Sì, ma il fatto è che sono sempre a Sanremo. Non è stata presentata al Festival di Montreal. Il regolamento parla in realtà che non deve essere già stata riprodotta, punto. Però quella canzone lì, di specifico, no. Giusto? No, allora, quella canzone lì è stata riprodotta, però non supera il 30%, cioè il pezzo che loro hanno preso non supera il 30% di tutta la durata della canzone. Ma io dico, allora, tutta la giuria che c'è lì adesso non lo sapeva già prima che questo pezzo, anche già stato a Sanremo in altri modi, cioè era lì, dunque non è che appunto dicono... Il festival, non so, sì, di ho capito. Dopo però dopo un giorno o due se ne accorgo perché è stato tirato fuori. Però comunque di solito a Sanremo vanno sì, le novità. Non ho letto anche giusto. Il regolamento, tutto. Quindi il regolamento dice che proprio non devi superare il 30% la durata del pezzo rifatto okay. Non deve durare il terzo totale, ecco. Sì. Se no è plagio. E niente, vabbè, sicuramente vinceranno loro, secondo me. Anche guarda, secondo me. Anche e secondo non me. C'ho nessuno che me lo dice da Sanremo. Ma sono... vabbè, sai cosa ti dico? A me, sinceramente, piace quella canzone, ma piace perché per il semplice fatto che comunque sta toccando degli argomenti attuali che sono molto facili. È molto facile. Io devo dirti la verità, invece il brano di Ornella Vanoni c'è lì su... si parla di classe. No, no, lì c'è un plagio. Io l'ho, già sentita la base, sia dall'inizio a più di metà. L'ho già sentita, è un brano elettronico. Cioè, lì siamo passati da una... Non mi ricordo qual è, però. Mi ricordo il giro di basso, il giro di chitarra è un plagio vecchio, 100%. Disco vecchio, nuovo. Disco vecchio. Sai che io ne ascolto talmente tanti che poi non mi ricordo che diamine è. Ma io l'ho già sentito il giro. Ah, cioè loro hanno cambiato secondo te. Hanno cambiato tutto, hanno cambiato la struttura. Sì, cioè, sì, beh, quello è proprio un classico plagio. Ah. La dico così, però devo andare avanti. Devo andare a cercare, fare una ricerca fatta bene, ma sono abbastanza certo. Non ci prendo spesso io queste cose qua. No. A orecchio. No, magari sì, perché tante volte sembra che hai sentito qualcosa, invece no. Vabbè. Però magari sì, cambiando anche il genere, uno non se ne accorge, però vabbè. Sì. Magari no, nella Vanoni non, sai, come autori. Il brano è bello, tutto quanto. Pacifico. Pacifico e Bungaro e Pacifico. Sì, che poi vabbè, poi dopo andiamo avanti a parlare invece dei cadaveri che sono stati dissotterrati per Sanremo. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è Disclosure Fit Elisa Doolittle. Disclosure? Si dice sempre così. Ma che ne so. È sempre una lotta. Io dico che si dice Disclosure. Disclosure, okay. Il brano è You e me, ok, ed è Flume Remix. È un brano, uno di quelli che mi piace un sacco. Tanto. Proprio bello. Bello. Andiamo ad ascoltarcelo. Your name, gonna be everything Eh dai, stasera stiamo cambiando parecchio il genere. Sì. Ci stiamo spostando molto. Va bene, questo qua era il brano di Disclosure. Disclosure. You and Me con Flume Remix. Vate, lui fa Baby sempre... Belin. Belin. You and Me. Belin. Cos'è? Non l'ho capita. Ma porto solo acqua minerale. Sì, infatti. Diciamo che oggi il beverage, il food rage è offerto da Tony e Deborah. No, era una canzone di anni e anni fa dove lui non si capiva bene se era maschio o femmina. Diciamo che era un po' tutti e due. Che canzone? Billy Moore. Ah, beh, ma quello è Up and Down, non è You and Me. Sì. No, ma qual era? È Up and Down. E qual era quella che sto dicendo io? Boh. Ah, non lo so. Il personaggio, probabilmente. Beh, lui era un drag queen. Un drag queen, non era. Non si sa se. Boh. La voce. Si diceva che forse no, ermafrodita. Vabbè, che era quella che. Fai una ricerca, dai. Fai una ricerca. Vabbè. Comunque, dovrebbe essere arrivato il mente, o no? No, ormai no, lei ormai è disconnessa oggi non l'abbiamo persa. Questo up and down, ok. Bisogna, andiamo sugli anni 90. Vabbè, oh, no, scusami, è musica anche quella. Quello, lui era molto bravo a fare musica. Lui, lei. No, ma non è lei, aveva le tette. Cantava lui. Aveva le tette. No? Dai. Tu che metti musica anni 90 non lo sai di chi è la voce. No, non lo so di chi è la canzone di, è la voce di Typical. Josh di Typical. Ah, no, non lo sapevo. Sì. Non lo sapevo. Lui era solamente un'immagine del progetto. No, non sapevo questo. Però so, guarda, in questo meccanismo c'ero, diciamo, finito anch'io. Nel senso che facevamo i brani e qualcuno poi ci metteva la faccia. Davvero? Ma è una cosa... Negli anni 90 si usava così, ma mi sa che si usa anche adesso così. Sì, comunque, sì, finiamo sì. Il discorso di Sanremo. Allora, stanno dicendo, vabbè, ok, non ci sono novità, e in più hanno disseppellito alcuni cadaveri. Sì, ma che poi, cioè, il cadavere che secondo me è il meno cadavere di tutti quanti è stato Pippo Baudo, che ha fatto una specie Lui sì. Cioè, beh, lui è la televisione, dunque sa come muoversi anche senza muoversi. No, per il resto sì, cioè non mi dei gruppi cadavere a me sono piaciuti i Decibel, devo dirti la verità. Sono rimasti come sì. I punk italiano punk, sì, lui infatti era punk, era un punkettone. Non te l'aspetti da lui, cioè, e invece non sopporto più veramente i Pooh, cioè basta. E tutte le sasse quest'anno, ne manca addirittura uno. Due canzoni, non una. Vabbè, lascialo a doppia. Madonna mia, no, non se ne può più. Basta. Vabbè, ma poi è un po'. Sì, mancano pezzi storici come. Cioè, gente storica come Albano. Però c'è gente che. Ce n'è già abbastanza, dai. Non era Vanoni, cos'è, 83 anni. Che comunque. Vabbè. Celentano. No, beh, sì, ma Celentano, quelli lì sono fuori. Sono eteri loro. Non hanno bisogno di andare giù. Mina c'è in continuazione con la pubblicità della è team. È orrenda. Veramente orrenda. Però la canzone ci aveva fatto già troppo le balle l'originale. Però è fatta malissimo. Sì, manca la pubblicità, è orrenda, devo dire la verità. Sono buttati così, guarda. Come a scuola puoi parlare, date la parola. No, volevo solo ricordare la pubblicità di Celentano che ci fa prendere... Ah, è vero, degli infarti ogni volta che parte. Praticamente è molto fastidiosa. Allora, praticamente quando ci sono le sue rock economy, quello che è, sì. Tu senti praticamente il volume della televisione a un livello normale. Sì. Quando parte lui senti così. Non si sa per quale motivo. Sì, così. Non sono così, cioè, non sei così dentro. Vabbè, dai, torniamo. Torniamo a noi. I Cromeo, conosci? Cromeo, sì. È un gruppo veramente bravo. Adesso è uscito questo singolo che sento che fanno girare un po' in tutta Italia. Cioè, fanno girare le radio. Mentre la tua dolce donna sta cercando canzoni anche un po' zozze. Però vabbè. Down Gang. Okay, ah, sì. Vabbè, Foxtrot. No, è quella You and Me. Vabbè. Ho capito adesso cosa ti rivolgevi agli UM. Sì, è vero. I Blue Dog Gang, hai ragione. Te che era Zoom. Sì, adesso non è che la metti. No, adesso andiamo ad ascoltare. Tagliai via il canale. Adesso andiamo ad ascoltare Cromeo con Outer Sight. Ma che cazzo, adesso gli scrivo, ma che cazzo di titoli fate? Fate un titolo più semplice. Beh, di un album di adesso? E di un album, no, vecchio. Beh. Vecchio, non, adesso vado a vedere quale. From a different occasion, and you remember me. You said I wasn't your kind. Oh, but baby, baby, baby, I think we'd have a good time. You got the savoir faire of a seasoned vet. I need a love affair, but I ain't seen nothing. L'album è il primo che hanno fatto, è Fancy Footwork. Non so se l'hai mai visto la copertina. Questa qua. Sì, delle mezze donne. Cioè, no, non è delle mezze donne. Allora, praticamente sono le gambe delle donne. Hanno una tastiera con il supporto. E il supporto è fatto con le gambe delle donne. Non è delle mezze donne. Mezze donne alla fine, cioè. Sono mezze donne. Quindi diamo i numeri, gambe delle donne 77. Però intanto, per due, quindi 2,77 sono intanto i numeri. Intanto per contattarci e darci dei matti, vi ricordo il numero di telefono 338-222-8983. Diamo anche io i numeri. Doniamo un euro a Tony. Perché? Per andare a farsi curare. Se anche tu hai questa brutta malattia. La colite. Non lo so. La colite? Cos'è che c'è? La colite. No, tu hai la colita. Come si dice? La colita. La colita. Pulite. Hai la colita, cioè. Questi tagli nel podcast. Sì, effettivamente. Questo andrebbe tagliato. Gli ascolti come calano. Quindi, praticamente, niente. Abbiamo finito. Adesso, questa sera si faranno la. Ho capito che non sono le 10. Scusate. Mi avete di parlare del festival? Perché sì, stasera basta, c'è la. Dovrebbe essere. I duetti. No, stasera ci dovrebbe essere il vincitore del Festival Young. Che signorina non ho sentito nemmeno. Festival Young. Festival Giovani. Delle nuove proposte. No, si chiama. A volte cambiano il nome. Quest'anno si chiama. O l'anno scorso anche. Sanremo Young. Oh. Saremo giovani sempre. Sanremo Young. Anch'io lo dico. Una volta. E che tra l'altro nei primi anni aveva vinto, per dirti, tanta gente che poi è diventata famosa. Sì, quindi secondo me è più interessante, diciamo, la parte giovani che arrivano già anche da un'accademia, non ho capito bene. No. Quelli partecipavano, diciamo che il percorso storico era Castrocaro, il famoso festival dei giovani, e chi vinceva comunque andava a finire sempre a Sanremo e vinceva. No, ma adesso penso che sia cambiato un po' la storia. Ma, con tutti i talenti così. Vabbè. Cioè, anche adesso non c'è la categoria giovani e non giovani, che tanto non si capisce perché i vecchi cantano come i giovani e viceversa. Sì, infatti. E comunque non so chi ha vinto l'anno scorso. No, ci sarebbe secondo me un gruppo che potrebbe anche essere passato all'interno di Wolf Trips. I Ruvidi. No. Ok. No, quelli ancora neanche giovani ci arrivano. A lei non piacciono molto Lacrima. E devo dirti la verità, alcuni pezzi a me piacciono parecchio. No, non sono quelli. Non li abbiamo in scaletta. Sì, neanche dirlo. Sono i Colors. A me non dispiacciono. Attenzione, che c'è un attimo di. Giusto per rimanere in tema Sanremo. Qua se ne vanno tutti. Vabbè. Comunque a me non dispiacciono, devo dirti la verità, Tony. Ma no, lascia stare i brani quelli più conosciuti. Ho ascoltato l'album. Alcuni brani qua che non. L'album che hanno fatto, l'unico che hanno fatto. Ne ha fatti uno o due? Ma che ne sapene. Dovrebbe uscire due. Saremo... Uscirà il prossimo. Ecco. No, io però ho visto l'esibizione molto. No, l'esibizione. Molto Imagine Dragon. No, l'esibizione era. Anche Imagine Dragon, beh, lasciamo stare. Ma perché? A me piacciono. Ma no, boh. Va bene, andiamo a ascoltare allora questo gruppo che te lo lascerei. Se vuoi, mettili i Colors qualche volta. Devo trovare un brano di quelli giusti per Wolf Trips, quello sì. Ma che cavolo dici, Tony? Cosa stai dicendo, Tony? Hey, Willis. Non diamo idee che. Io ti lascerei annunciare il prossimo brano. Sono la pubblicità. No, il prossimo brano ti lascerei annunciare. Il titolo, non il nome del gruppo. No, il nome del gruppo più il titolo. Allora, dovrebbe essere Mr. Craft. Bravissimo. Ti ho fregato, ti volevo fregare. Che però si scrive solo con le consonanti. Sì, anche questi con il codice fiscali. Fiscali. Va bene. E la canzone è Play With Yourself. E con questa siamo ancora, anche con questa, molto borderline stasera. Sì. Molto borderline. Vabbè, abbiamo un po' esagerato, dai. Però mi piaceva sto brano. Questo è da. Non so che orario. Vengono da. No, questo sì, da. È da. Come si chiama? After. Sì. Ma molto after. E se non ti ha preso male, ti prenderà male dopo. Loro vengono da Toronto e si chiamano Mastercraft. Sì, che non c'entrano niente con la Mastercraft. Qual è Monster Cat ancora? Non riusciamo stasera a comunicare. No, ma mi sa che è già dalla chat che non comunicavamo. Sì, infatti, già da infatti. Ieri sera. Comunque, devo dire la verità, alcuni brani loro mi piacciono parecchio. Sono difficili questi, sinceramente anche a me non è anche... Cioè, così a primo ascolto non mi interessa. Ascolteremo qualcos'altro, vediamo se riesco a farti cambiare un po' idea, dai. Magari anche sui Colors. No, sui Colors non penso che cambia molto idea. No, beh, ma... Dici. Io ormai non cambio idea. Vai. Rimango della mia idea. Cioè, qual è la tua idea? Che non è la sua idea. Quella che i Colors non mi piacciono. Ma a me non dispiace. Vabbè. Ma lui è giovane. Sono gusti. Giovane inside. Infatti, se mai dovesse partecipare il gruppo I Ruvidi, dovrebbe partecipare nella categoria Young. In qualsiasi concorso, categoria sempre Young. Sempre giovane. Ma... Sì. O sempre green, evergreen. È vero. Andiamo a ascoltare l'altro brano della tua simpaticissima... Allora, della mia simpaticissima rubrica senza sigla. Ancora per una settimana, dai, settimana prossima ce l'abbiamo la sigla. E diciamo che i titoli più o meno girano sempre su quel discorso del mare, non so perché. Va bene, la canzone si chiama... Sì, qua è esagerato comunque. Non lo so, ma io perché vado... Ma non col genere, proprio col titolo. Sì, in effetti. La canzone si chiama On the Beach, che non è la canzone famosa di Chris Rea che hanno rifatto anni fa. E invece è un gruppo che si chiama Ocean Lab, che è un progetto musicale di Above Beyond, che... No, aspettate, io una cosa seria non riesco mai a farla con la Cree. Cioè, non lo so cosa sta facendo. Vabbè, ma si è scasciato, dai, ne cambiamo. Probabilmente si è rotto, dai, vabbè, non c'è problema. Si è rotto, vai. Cioè, ciao. Come fai? Vabbè, tu fai finta di niente, vai avanti. Allora, Ocean Lab, che è un progetto fatto da Beyond con un'altra cantante, che si chiama Justin Suissa. Quindi il gruppo Above Beyond, loro fanno comunque musica trance, giusto? Sì, vabbè, non devo dirlo. Hanno fatto anche due album acustici, dunque sono anche dei musicisti veri e propri, okay. Loro famosi, soprattutto il primo remix che hanno fatto per Madonna di, sì, fatto Wonder con... Non riesco mai a dirlo il titolo. È quello che lei guida la macchina con sulla signora anziana che spaccano terra. Ah, sì. Però la versione originale non è quella. Nel remix del video c'è la versione quella lì. Dica, Cristina. Bella questa base. Dica, c'è Luca. Vabbè, ma tu c'hai le distruzioni lì. Madonna. Sì, no, perché vabbè. Dovete sapere che prima è arrivato Tony alla mia postazione. Mi ha toccacciato tutto. Quindi... Io l'ho fatto lungo, sinceramente. Allora, parlaci di questo brano. Oh, non posso anche andare ormai. No, vabbè. No, dove te lo immagini, allora... dove... Allora, già il nome si chiama Ocean Lab. Ho capito, okay. Abbiamo capito che tema che me lo tua... immagino in bagno. Anche lì c'è l'acqua. È in bagno, c'è nella vasca. Nella vasca. No, okay. Niente, stasera è proprio il degenero totale di Wall Street. Questa canzone che si chiama, il titolo è... On the Beach, dall'album, l'unico che hanno fatto, Sirene of the Sea, cioè Sirene del Mare, anche qua, proprio, ma perché proprio i suoni ricordano le profondità del mare, e 2008 questo album, e ho scelto questa canzone che è una delle tante che... Quindi lo spazio... Questo è molto strumentale. Lo spazio temporale, lo spazio l'abbiamo capito, adesso manca il temporale, quindi... Dove? In spiaggia poi sì, ci vuole. Cioè, in spiaggia... Ok, manca il... Quando? Non la capisco. Manca una collocazione temporale al tramonto, Sunset. Questa versione è soprattutto Sunset. Perfetto. Traduzione... Vai, visto che abbiamo l'inglese qua, vai. Tramonto. Bravo. Bravissimo. Sunshine e l'alba. Bravissimo. Sunrise. Ho chiamato. Invece Walking on Sunshine. Camminare al sole, sa? Sui raggi del sole. Oggi ho capito. Vabbè, allora trasferiamoci in spiaggia. Sempre. On the beach. On the beach. Goodbye to all your friends. There's nothing like you and me on the beach, moving with the waves in the sea. There's nothing like you and me out of reach on the beach. There's nothing like you and me. Il pezzo è bello, è rilassante, però devo dirti la verità, in studio non ha rilassato gli animi. No, anzi, no, è stato molto accesa la cosa. Vabbè, non vabbè. Niente alcol, ragazzi, niente alcol. No, basta, basta, basta. No, vabbè, allora, o si va sul pesante o diciamo che... Ok. Mi sembra di aver visto la faccia di Dario. No, è felice, è felice. È buon felice che hanno fatto un'intervista. Ah, ok, ok. Poi c'è un po' la somiglianza con Dario. Ma Dario chi? Dario... Del giovedì sera. Electro Movie. Electro Moody. Electro Moody, non Electro Movie. Non lo so, vabbè, più o meno. No, beh, lui comunque... Lo salutiamo perché io ci parlo spesso con lui, fa un bel programma. A me non dispiace. Ciao Dario. Ciao Dario. Anzi, ogni tanto gli dico di passare anche lui a trovarci. Infatti, poi meno male. Ma lui mi dice anche lui la stessa cosa. Il problema è che lui inizia alle 11 e finisce alle 3 di notte. No, che... finisce a mezzanotte. No, vabbè, scherzo. Però è un orario che comunque ti porta. Non so come faccia. E beh, però il genere musica che fa, secondo me ci può stare. Dai. Sì, no, va bene, va bene. Chi si sa, a una certa età, il buon Domingo è a dormire. No, io esattamente alle 11:20 inizio ad avere sonno, ma proprio pesante, tipo che mi spengo. Ma io dormo mai sul divano, praticamente. No, che divano, io voglio il letto, bello caldo, bello tranquillo. Cosa c'è? Cos'è? Ah, è la pace, avete fatto la pace. Ah, Titina, dai, che figata, andiamo avanti. Ma neanche pazzi, perché poi alla fine... Ma sì, ma mica me la prendo per queste cose, dai. Ma va, figlio. Qua c'è ancora il bel gracchio sotto. Porca miseria, allora c'è something che non funziona. Prova a cambiare il canale. Vabbè, allora siamo arrivati un po' alla parte, all'ultima mezz'ora di Wolf Trips. E come consueto ormai dalle ultime puntate, metteremo gli ultimi brani della, cioè le prime 5 posizioni della classifica di Wolf Trips, come abbiamo fatto già settimana scorsa. Devo dire la verità, non ci sono grosse novità questa settimana. Non... è un po' come Sanremo. No, vabbè, a me piace fare le classifiche fatte in modo serio. Perché quindi domenico è domenico. Però diciamo che la settimana prossima, perché io mi porto già avanti con le classifiche, la settimana prossima invece ci saranno una rivoluzione. No, rivoluzione no, però un bel po' di nuove entrate. Insomma, dai, aspettiamo che arriva la primavera, che quando si sveglia un po' tutto. No, infatti è proprio quello il discorso. Non ci sono grosse novità proprio anche a livello musicale. C'è poca roba. All'inizio dell'anno dovrebbe essere sempre... Sta iniziando a uscire adesso, secondo me, in questo periodo qua. Perché adesso fa ancora freddo. Sì, poi per la gente ormai di una certo di un'età importante. Come diciamo che sua. Escono, però magari poi bisogna coprirsi, quindi non le vede nessuno. Sì, non le vede nessuno. Quindi così. andiamo ad ascoltare quindi la posizione numero 5. Che settimana scorsa era sempre. Aspetta, te lo dico. No, c'ho tutte le informazioni. Quinto. Mi sa che era... No, era al quarto posto, perché no, in discesa. Io vedo 5. No, era in discesa. Aspetta, guarda, ti fa vedere meglio. Comunque, diciamo, il brano è di Hotel Garuda, Dancing on the Moon. Tra l'altro, Lemaître Cavego Remix, che Lemaître è sempre una... C'entra comunque qualcosa comunque con il... con l'hotel, no? Infatti ho cercato qualcosa su internet, sembra non siano dei fissati. Sì, Lemaître. Che è pugliese. Lemaître. Comunque era la posizione 4. La posizione 4. Quindi scende di una posizione. Andiamo a ascoltare quindi Hotel Garuda con Dancing on the Moon. Aspetta che ci sono dei segni che ti fanno dalla... dimmi. Ho detto che io l'unico Lemaître che conosco è il cioccolatier. Lemaître cioccolatier? Sì, quello dell'indoor, abbiamo capito. Sì. Ma Lemaître comunque è una figura professionale anche dei motel. Non è quello che sta nella hall. Nella hall, bravo, vedi? È per quello che vi dico. Vi sto quello dicendo minchiate, dai. Quello che spaccia le donnacce. Allora sì. Io nella mia hall... Le coperte. Waking up to wonder, like all we can discover. Time to get up and see what we only can dream. How does it make you feel? Does it make you believe? 'Cause when I'm with you, we could be dancing on the moon. Come on, now get on up. Get on up. Get up. Gonna break it down tonight. niente, così, che te devo dire? Non so che dire. Conclusione? Siamo arrivati a una conclusione. No, non è vero, ancora abbiamo ancora 20 minuti di musica, dai, con calma. Ah, non lo so, stasera io vengo censurata, vengo bistrattata dai maschi. Io penso che io dopo... sono contro. Dopo faccio una campagna contro la violenza sulle donne. Ah, in radio. Anche quella psicologica. Soprattutto quella psicologica, però non c'è stata violenza dai stasera. Semplicemente no. Che non ti abbiamo visto. Siete due carnefici, siete. Non mi avete né visto né sentito per colpa sua e sua. Vabbè, è stato tutto registrato. Sì, sì, infatti, tutto provato. Anche via webcam, quindi non ti abbiamo sfiorato. No. Andiamo avanti. Al numero 4. C'è mi un viene bel... sempre dal modo di dire. A... Sì, da... alla top. Su, come si super chiamava? Classifica show. No, beh, super classifica show, bravo. Quindi sei il telegattone. Anni 80, dai. Sei il telegattone, quindi. Telemiccione. Il telemiccione, cos'è il telemiccione? No, quindi. Telegatto. Telegatto. E il brano, anche questo qua, è in discesa. Se ne va. Loro sono. È il brano di Patawawa. Cos'è sta roba qua? Il brano si chiama Patagonia. Vabbè, quella è la famosa rivista americana. Sì, no, ma loro, inglese, NME. Loro si stanno iniziando a prendere anche piede, penso un po'. Sì. Cioè, sembra una foto di un giornale anni 80-90, di quelli di moda, sai, quelli dei ragazzini, tipo un Cioè. Sì. Tra l'altro stavo cercando anche di leggere un po' cosa dicono. Loro sono fan degli Chic e di quel brano lì che dicevamo prima, di quella punto esclamativo, che non so come pronunciarlo. E suonano un po' fan disco. Lei sembra un po' la cantante dei No Doubt, no? Sì, è vero. Vabbè, è un gruppo nuovo, una novità da ascoltare. Poi dopo sicuramente nei prossimi mesi andrà avanti. Dimmi. Vai, nulla. Vedi? Allora, vedi, che parola, poi nulla, ti stavo guardando l'immagine, ma non... Ok. Di Patawawa. Patawawa. Quindi andiamo ad ascoltare Chihuahua. Patagonia di Patawawa. Sì, Tony, meglio che non la porti più la birra. Te lo dico. Sì. È meglio la porti più la birra, che qua i, no, i toni no, si stanno alzando. I toni. Si stanno alzando i toni. Si alzano i toni ogni tanto. Okay. Vabbè, vabbè. Oh. Sei, soprattutto al mattino. Io non ho problemi tutta la giornata, sinceramente. Però vabbè. Vabbè, vabbè. C'è qua lei volendo, vabbè. Non la porto più la birra. Non la portare più la birra, bravo. Facciamo così, facciamo così. Che è meglio. Andiamo a ascoltare la posizione numero 3, che sono i tuoi amici. Ah, gli Autograph. Gli Autograph. Autograph, scusate. Con il solito luce, brano, che ormai abbiamo ascoltato mille volte. Ma ormai mi sa che siamo alla fine. No, ma sì, siamo alla fine. Stiamo per uscire dalla classifica, dai. Beh, ma scende più piano piano, dai. Vabbè, con calma. A me piace questo brano. Ma non c'era un altro brano sti qua? Infatti. Hanno fatto anche altri brani che io ho sentito, Però vabbè, la classifica è quella, comunque. Non si parla di album, ma si parla di singoli. No, effettivamente è abbastanza vecchio, perché è da 7 settimane che è in questa classifica. Sì, infatti, ma perché? Cioè, non ma è lui è il vecchio stampo, perché no, che le canzoni rimanevano anche mesi, anche anni forse. No, beh, ma allora, se tu guardi le classifiche ufficiali, ci sono dei brani che sono anche tipo 68 settimane in classifica, sì, tipo Billboard o altre classifiche. A me piace studiarmela un po' la classifica, nel senso, non mi piace fare su e giù, le canzoni vanno su e giù in continuazione, quindi... Deve avere un senso logico. Sì. Cioè, se una canzone scende, sta iniziando a scendere, sì, se ne va fuori dalle scarpe. Non piace più da un giorno all'altro, questa hai ragione. Sì, non lo so, è un po'. Non so se ti ricordi le classifiche che faceva Marco Ravelli. Sì, sì, me le ricordo. No, me le ricordo ancora adesso perché ascolto il suo programma al pomeriggio. Dunque. Ah, sì. Vabbè, ascolto anche altre radio, non è che. Lavorando qui lui poi, era la classifica. Cioè, nel senso. E poi come. No, bravo che le ascolti. Sì. Io invece niente. Non voglio sentire nessuno che parla. Sono due scuole di pensiero diverse. Chi ascolta la radio per gli speaker, chi invece infatti, non infatti, vuole sentire. Infatti. No, noi cerchiamo di fare una via di mezzo. Sì. Ogni tanto non ascolto proprio nulla perché sei proprio nel tuo mondo. Ne ho le scatole piene, quindi preferisco rimanere in silenzio. Ah, spegni proprio la radio. Sì. Vabbè, dai, continuiamo allora con Autograph Smell Like. Smell Like Teen Spirit. Non cambieranno mai. 7 settimane che c'è, 7 settimane che sbaglio. Thank you. Dimmi. Ti vedo confusa. No, era un dubbio che dopo mi toglierò. Ma era collegato. No, sono questo Cristina. È il dubbio. Ma era un dubbio collegato alla domenica canzone. Io intanto saluto Fe, ciao! Il buon Felice Filippini. E saluto anche il buon Fabio. Io saluterei Patawawa. Patawawa, sì. Salutiamo anche Patawawa. Come si dice? Il nostro amico. Hello. In inglese. Hello. Ah, hello, ciao. Hello. Our friend, no, Patawawa. Come si può dire tradurre? Beh. Translate. Ciao per dire ciao. Uy. How are you, Patawawa? Anime. Anime. Sì, questi cambiano già. Questo il pollice diventa inverso adesso. Vabbè, abbiamo ascoltato invece gli Autograph, che no, hanno fatto altri brani. Infatti, credo sto aspettando di tirare fuori questo dalla classifica e mettere l'altro brano. We attend you, Patawawa, at Radio Lupo Solitario. No, devo dare as soon as possible. Devo dare una notizia invece. Sto contattando invece un gruppo che si chiama Le Mondane. Minchia, una volta che ho fatto l'International, no. Sì, questa c'è ragione veramente, dove stavolta, cioè, sto cercando di comunicare. Sto morendo, ragazzi. Lascialo morire, Emilio, dai. Sono tornato. Beh, International. Comunque stavo chiedendo ai nostri Patawau amici che possono venire a trovarci a Radio Lupo Solitario as soon as possible. Telefonicamente. Quindi, magari. Telefonicamente si potrebbe fare Via phone. Skype, così. Via Skype, via telefono, via Skype, via Skype, perché no? Why not? Però io dico che io non parlo, forse è meglio. C'è Google Translate, scusami. C'è la voce quella automatica, robotizzata. How are you? Sì, mentre fai le What parole, is lette, your name? Sì. Magari con la voce del finestra. Però dobbiamo avere sia il testo inglese che il testo in italiano, perché sennò sì. Chi è che traduce? Allora, guarda, ti risolvo il problema. Ho trovato un gruppo che mi piace molto, si chiama Le Mondane, che sono due ragazzi. E probabilmente Le Mondine? No. Le Mondane. E probabilmente saranno ospiti in una prossima puntata. Tra l'altro gli ho chiesto anche di fare un piccolo live. Okay. Bene. Un po' come avevamo fatto l'anno scorso con... con quel gruppo lì. Adesso lo recuperiamo. Avevano un nome ed un nome erano veramente bravi. Io il CD in macchina di Murmur Mori. E sono veramente bravi, Tony. Veramente. Io li ho sentiti pure suonare dal vivo e mi sono piaciuti un sacco. Ma sono andato qua dal vivo. Sì. Il problema è che era estate, porracci, si sono sciolti gli strumenti. Però, tra le zanzare e il caldo eravamo proprio... Sì. Sono veramente bravi. Ho il CD in macchina che ci hanno gentilmente regalato e ogni tanto me lo ascolto. Sì, molto musica molto. Invece riprendiamo un po' la classifica. Numero 2. Questo qua è un brano Jolly Put. Sì, è remix, però, attenzione, sì, non è la versione originale. L'ho sentito molto. La canzone è How Long. E il remix è di Jerry Falk. Numero 2, ormai è in salita questa, dai. Diventerà prima questa. Se lo dici adesso. Probabilmente, dai, faccio un po' di spoiler. Vedo, prevedo, travedo. Ho fatto un po' di spoiler. Andiamo ad ascoltarcela. While you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, has been going on. You've been creeping around on me while you're calling me, baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how." gotta believe me when I say it only happened once. Mm-hmm. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies." Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? How long has questo qua era il remix di Jerry Falk, dai, non era male. Sì, ma Jerry Falk è già il nome. Cosa ti ispira? Sì, infatti, se parli lontano 8 km e mezzo. Eh sì, sono i potenti mezzi della radio. Giusto, che giusto. Arriva ovunque. Sì, cosa è sta roba? Oh. Ma che siamo al... Yeah! Scendo le scale di Sanremo, yeah! È effettivamente la base... presento Michael Bublé! Yeah. È la base di Roy Paci questa. Bella, bella. Però a me non dispiacerebbe le scale che scendono così. Ma vai a abitare. Beh, già abiti al primo piano, non ti basta. No, ma lei diceva le scale che scendono da sole. Scale anche quelle. Le mie scale sono fisse, non si muovono. Ah, perché loro vanno su e giù. Ma intanto le pagate te, ricordatelo. Guarda, che è giusto che vai te. Si ribella anche il microfono. Ah, ok. Andiamo a ascoltare la prima posizione, sì, ma, dai. Scusa, no, sto stacco qua con una classifica elettronica proprio. Cioè, mi ma sembra... sì, ma va bene. È come dire che ci sono due comici in radio. È per spezzare, dai, è per spezzare. Sì, è proprio per spezzare, per spezzarci in due. Io adesso vado a Milano al Blue Note con questa canzone. Hai visto? Aspetta che la metto un po' tu. Andiamo a ascoltare il brano numero uno, oh, che è sempre quello, non è cambiato settimane... rispetto a settimana. No, da 7 settimane in classifica, no, questo. Da quante settimane è il primo? No, non lo so, sarà la seconda settimana, boh, che ne so. Ah, non ho mai perso il conto. Ho perso il conto. Beh, comunque il brano è Louis the Child con Last to Live. Lascia lì. Che sì. No, lascia andare. Lascia andare al numero uno. No, ma in realtà non è lascia andare, perché last to live. Ma mi sa più... è lasciare. Sì, però last è l'ultimo. L'ultimo. Last del live. Vi do un compito. Traducete che cacchio vuol dire, last... dai. È vero. Iniziamo ad andare ad ascoltare, che poi dopo ci vediamo, sentiamo per i saluti. Però voglio sapere se riusciamo a trovare la traduzione. You took it off the table, then I put it back again. Good at starting, but I don't know when it has to end. You're leaving in reality, I'm staying and pretend. Here I am, holding on. Here I am, and you're gone. I'm the last to leave the party, don't know. I'm the last to leave the party. Don't know when. I viaggi del lupo. E di Riffa e di Raffa siamo arrivati alla fine, dai. Siamo arrivati finalmente alla fine arrancando questa puntata. Sì, non lo so, alla fine inizio a dire un po' di cose non logiche. Beh, veramente già dall'inizio. Già dall'inizio, brava, brava. Si è partito veramente male. In realtà all'inizio ero partito benissimo perché avevo fatto anche degli aneddoti storici sulla giornata dell'8 febbraio. Ah, poi sì, è andato tutto scemando. Persi. Perché cos'è l'8 febbraio? No, l'8 febbraio avevo letto che praticamente sia stato il primo giorno in cui è partita l'ora legale negli Stati Uniti e c'è stato un concerto dei Beatles in televisione che aveva raccolto 73 milioni di ascoltatori. Mai nella storia. Ma in America o? No, a Mondovisione. Sì, ma dico, è un programma americano o inglese? Il programma no, ah, non è. Ah, ti ho beccato. Era sulla BBC? BBC, probabilmente BBC. Sì, BBC. Ok. Sì, comunque c'è stato questo excursus storico. E poi dopo c'è stato il delirio in basso. Oggi ho letto che ci ha lasciato un altro famoso, è un gruppo abbastanza famoso nel mondo rock, il Mr. Big, il batterista, adesso non mi ricordo il nome, più o meno sui 60 anni. Però mi sembra strano che abbia 60 anni, non era così il gruppo di così gente vecchia, infatti. Vecchia, vabbè. 64 anni, no, ma loro sono degli anni 90. Ascolta, mi strano, 64 io ho a che anni. Fare con molto sì, con adesso, gente molto mettiamola più nel personale. Quindi, no, se no, tu no, mi dici che comunque, uno ha 64 anni è vecchio. Comunque, quel detto che i Rolling Stone li vedranno tutti morire, cioè, come, veramente. Però, vabbè. Intanto volevo salutare invece, sai, giusto che io intanto entro così, Sam, che non lo vediamo. Non si vede Sam. Siamo stati anche sabato al suo bellissimo negozio. Ah, sì, andate al Cannabis Amsterdam di Gallarate, se volete. Vabbè, non c'è nulla di strano alla fine. No, tutto legale. È tutto legale, veramente. Ma sai, magari stasera non c'è perché i suoi proprietari diventeranno americani. No, a parte quello, sai come si dice, no? Si è fumato l'ora. Cristina, io questa cosa qua, No, ma lo sai che lui dorme fuori stanotte? Ma non fa neanche tanto freddo, dai. No, infatti si sta bene. Sta no? Bene. Non in macchina, non in macchina. Alla ghiaccio. Alla ghiaccio, ok. Vabbè, chiudiamo qua la trasmissione che ormai che è meglio. Niente. Anche una bella serata. Sì, stasera. Sì. Ci ascoltiamo sicuramente settimana prossima noi. Sì. Per forza. Va bene. Allora niente, vi saluto, saluto Tony. Ma cosa dobbiamo ricordare? Domani sera. Se volete passare in Azzo che c'è il nostro super mega direttore. Giorgio Fioretti che metterà un po' di musica. Detto anche Little Flower, Fioretti. Little Flower? È Little Flower. Vabbè, se volete passare dal Little Flower, sarà un DJ set di musica rock. Ma tu non Lupo. Devi dargli corda. No, ma adesso dove? Al Family Pub Ainarso. Andate che è un bel posto. Che molto salutiamo. Familiare. Salutiamo. Che è molto familiare. Molto familiare. E invece settimana prossima la radio sarà poi all'Opera Rock. Sì, per il carnevale ambrosiano, no? Ok. Ma che ne so. Cioè, sì, no, perché ormai sono tutti i carnevali in giro. Sai che c'è anche il carnevale quale? Adesso non mi ricordo. Dioleggio. No, ma mi sembra lo fanno in due, lo fanno in due il carnevale di Oleggio. Lo fanno in due il carnevale di Oleggio. Uno scemo l'altro peggio, sì, vabbè, bene, andrai anch'io. Va bene, salutiamo, ti saluto Tony, ti saluto Deborah, ti saluto Cri. Io saluto. Chi saluti? La Bieva. Ma chi? Non lo so. Ma chi gliel'ha chiesto? Tua moglie. Allora, no, ascoltate, è una cosa seria. Fabio, ci sei mancato stasera. Io e ti saluto. La Chiara? E anche? Chiara. Perché? Chiara. No, come si Ferragni? Chiama? Chi cazzo stai dicendo? La blogger, come si chiama? Chiara Ferragni. La Chiara. No. Chiara, chi è? Ma che è Chiara Ferragni? Vabbè, Tony la ormai. Vostra, la vostra. Oddio, la ragazza che lavora alla media, morto. Ah, l'Erica. Erika, perché mi dimentichi? Ciao, Erika. Vabbè, certo, la salutiamo. Anche da Erika. Certo. Ciao Erika. Certo, io la saluto sempre. Aspetta, ciao Erika. La base cosa fa? No, l'hai rimessa due volte la base. Ne ho messe 6 o 7 di base. Cioè. Sta durando più la base che tutto il programma. Tutto il programma. Veramente. Vabbè, vabbè, andiamo, andiamo, no. Ci sentiremo settimana prossima. Okay. Diciamo. Scusami, faccio un mezzo. Iacchetti. Ciao mamma. È vero. Giusto, giusto, giusto. Ciao mamma, ciao papà. Diciamo che poi il podcast dura 10 minuti. Sì, okay. Sì, perché devo tagliare un po' di cose. Okay. Ciao. Ciao, ciao. E DJ...